Ehi rocker, qui sono le 8 del mattino. Da voi dovrebbero essere le 8. Pane, burro e rock and roll. La nostra colazione fino alle 9. La tua colazione rock. Com'è? Com'è? La sapete canticchiare? Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM perché conviene e perché fa bene. Iniziamo la seconda ora di diretta sempre con l'Ariele, Frick, Spadino, la nostra redazione e Mister Trombetta. Sarà una seconda ora intensa, abbiamo un po' di appuntamenti. Andrea Patente 147, colui che ascolta la concorrenza, quest'oggi dovrebbe renderci conto della concorrente Virgin Radio. E a questo proposito avrei altri commenti da fare, visto che arrivano parecchi messaggi. Vi ho tanato mascherine, eh? Ah, non ascoltate solo Rock FM voi, bravi, bravi! E se vi siete persi la prima ora, ragazzi, gustatevi la seconda, poi la prima ve l'ascoltate dopo su internet. Abbiamo il grande Lebowski a tenerci compagnia. Ragazzi, un intervento niente male, da sciacquarsi la bocca. Senti qua. Questo è un tuo compito, Larry. Senti, bello, noi... Ti prego. Walter. Questo è un tuo compito, Larry. Walter, perché non gli chiedi della macchina? Questo è tuo, Larry. Questo è un tuo compito, Larry. È tua la macchina qui di fronte. Questo è un tuo compito, Larry. Lo sappiamo che quello è un suo compito. Dov'è finito il malloppo? Faccia da porcello. Senti, Larry, hai mai sentito parlare del Vietnam? Ah, vaffanculo. Stai per entrare Vietnam, in una valle di lacrime. Sappiamo che questo è il tuo compito. Sappiamo che hai rubato la macchina. È il fottuto malloppo. È il fottuto malloppo. E sappiamo che questo è il tuo Guarda compito. Guarda che noi ti tagliamo il piffero, Stai Larry. Uccidendo tuo padre, Larry. Va bene. Passiamo al piano B. Vuoi vedere che cosa succede al parabrezza? Ecco che cosa succede quando cerchi di fottere chi non conosci. Walter, che cosa vuoi fare? Guarda bene, Larry. Guarda che succede. Lo vedi che succede, Larry? Porca Lo vedi puttana. Che succede? Questo succede quando cerchi di fottere chi non conosci. Vedi che succede quando cerchi di fottere chi non conosci? Questo succede. Lo vedi che succede, Larry? Lo vedi che succede, Larry? Lo vedi che succede, Larry, quando cerchi di fottere chi non conosci? Questo succede, Larry. Questo succede, Larry. Beh, ne accadono di cose strane nel mondo, eh? Stava per dire ne succedono di cotte e di crude. Mi ha tolto le parole di bocca grazie alla nostra rubrica denominata Le ansie in ansa, lo strano ma vero. Anche quest'oggi andiamo a scoprire una vera notizia rock. Notizie impossibili ma vere da tutto il mondo. Maestro, io mi tengo stretto alla sedia, lei la prego, mi legga il titolo. Ubriaco ruba un carro funebre durante una cerimonia. Ah beh, complimenti. Sappiamone di più. In Nuova Zelanda, e più precisamente nella cittadina turistica di Rotorua, un 46enne ubriaco ha rubato un carro funebre durante la celebrazione di un funerale tradizionale maori. L'uomo, non un semplice passante ma un parente del trapassato, è salito a bordo dell'auto, ha acceso il motore e si è allontanato come se niente fosse. Il personale delle pompe funebri si sono però accorti immediatamente del furto e hanno chiamato subito la polizia. Una pattuglia ha individuato e fermato il mezzo. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, teneva sul sedile del passeggero un intero cartone di barattoli di birra. Con gli agenti ha tentato comunque di giustificarsi. Non volevo far nulla di male, stavo semplicemente andando a pesca. Un vero applauso a questo genio del male. Tra l'altro stavo pensando, un funerale di tradizione maori, così l'immaginario che abbiamo noi dei maori è di gentaglia, insomma, tosta. Sarà per la squadra di rugby, ma bella grossa e bella tosta, e questo sì. Ha rischiato le botte. Sì, se lo prendevano, secondo me, finiva macinato. E soprattutto, chissà se aveva intenzione di andare a pescare sapendo se aveva il suo parente dietro o non gli interessava. Secondo me sì, voleva fargli fare un'ultima pescata. Forse romantico. Sì, questa sarebbe stata un'ottima giustificazione. Az, fossi stato il suo avvocato difensore. I'm only happy when it rains. chiamano Garbage. Questa è Only Happy When It Rains. 8 e 12 minuti primi, la diretta di Rock FM. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. In voce sentite spesso e volentieri me, che sono l'Ariele, vi saluto, ciao, buona giornata. Ma come i più fedeli sanno, la trasmissione viene costruita grazie a dei radioascoltatori che si prendono dei compiti per aiutarci nella sfida contro i giganti della radiofonia. La missione si chiama Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà. In questo grande aiuto ci dà Andrea, lui ha anche una patente da vero rocker, la numero 147. Bentornato a PBR, ciao Andrea. Ciao Iele. Tutto bene? È uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Allora, l'amico si è sopportato, M2O. DJ. Radio Z. Te l'hai detto come dire, è stata dura quella. Quella è stata dura. Poi ti sei fatto 101 e da settimana scorsa hai detto, sto giro andiamo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, sì, era ora, assolutamente era ora. Dai, su, che poi ti devo chiedere una cosa, vai. Va bene. Allora, Virgin Radio è un argomento un po' scottante, visto che si fa musica rock. Ahia, sì. La prima radio rock d'Italia. Di fatto sì, è il network, quindi la prima radio rock d'Italia. Però non è, filologicamente non è precisissimo. Ma infatti, tra l'altro, notavo anche su internet che quando è stata introdotta, è stata presentata, ha aperto le trasmissioni il 12 luglio di quest'anno, sì. Parlavano del fatto che in Italia mancasse una radio rock. Ai. E qui... ai. Avevano già commesso il loro primo. Magari intendevano mancava una radio rock gigante. Vabbè, ok, però non era preciso. L'avrebbero dovuto quantomeno citare. Ma Andrea, non occupiamoci di queste cosette. Vabbè. Noi dobbiamo studiare la concorrenza e capire come batterli. Dici. Allora, diciamo che... Aspetta, permettimi di dire, diccelo tu che la potevi ascoltare, perché io qua ho scoperto che ci sono altri che l'ascoltano. Vai. Ma si ascolta sempre la concorrenza. Ma tu lo fai allora, di lavoro, quindi va bene. Va bene. Partiamo dal direttore artistico, visto che è il DJ Ringo. Mitico. Che insomma nasce da Via Locatelli 1 e quindi... Da Rock FM. Esattamente. Io non ho avuto piacere di conoscerlo quando era Rock FM, però insomma svariati anni fa, è stato uno dei primi a parlare su Rock FM. Sì, DJ Ringo, quindi poi ha fatto la sua brava carriera ed è approdato come direttore artistico di Virgin Radio. Esatto. E tra gli altri, ecco, ci sono Paola Maugeri, che fa una rubrica per adesso sulla storia del rock. Sì. Anche se, diciamolo, insomma, Smox. Che cosa? Non so se riesce a raggiungerlo. Comunque. Ah, hai capito? Sarà contento Mox se all'ascolto. Tu dici che la fa meglio Mox la storia del rock. Non è niente. Sì, sei già stato cattivo. È da confrontare. Io ho un problema del quale devo parlare con te, Andrea. Poi riprenderemo a parlare di Virgin Radio in un prossimo intervento. C'è una marea di gente che scrive al numero di SMS dicendo che c'è uno spot realizzato con una voce identica a uno speaker di Rock FM. Dicono che sono io. Ah. Tu non l'hai sentita? Ma guarda, ti dirò. Non l'hai sentita. Devo riascoltarmi intanto, tutti i vari nastri. Devo andare nel mio studio e riascoltarmi tutti i vari nastri. Intanto scopro che ci sono con il mio staff. Tantissimi là fuori che invece l'hanno sentita. Questo implica il fatto che ascoltano la concorrenza. E questo non va bene. Questo non va bene. In tanti però hanno un po' la coda di paglia, perché iniziano il messaggio dicendo: premetto, a volte Rock FM non si prende bene, quindi vado di là. Ho sentito uno con la tua voce, ma eri tu? Tra l'altro, Andrea, mi hanno anche dato un po' del traditore. Ma io adesso ne parlerò con il mio staff e vedremo tra le varie registrazioni se è vero questo. Quindi cominciamo a valutare il fatto che sia vero. Io vorrei spendere una sola parolina però sul fatto che anche un po' di tempo fa qualcuno ti scriveva: ma Virgin Radio parlate troppo, invece Virgin Radio fa solo musica. Sì. Ma diciamolo, è vero questo. Virgin Radio adesso fa soltanto musica, rubriche ce ne sono pochissime e musica e diciamo anche tanta pubblicità. Sì. Io direi questo: Rock FM è fatto di persone rock,

Per rendere vincente qualsiasi programma radiofonico o televisivo che sia? Agganciare il radioascoltatore o la radioascoltatrice con un quiz di altissima tensione. Ed è proprio quello che facciamo giorno dopo giorno qui a Pane, Burro, Rock and Roll con quello che chiamiamo il test attitudinale. Che, attenzione, può regalarvi punticini preziosi per la vostra tessera di autentico rocker. Dice bene, caro Freak, quest'oggi parliamo di rock e leggende. Ah, quante leggende circondano anche lei. Rock e leggende vanno a braccetto. La ringrazio. Prego. Rock e leggende vanno a braccetto. I grandi protagonisti della storia del rock sono stati e sono vittime di leggende metropolitane che li riguardano. Nello specifico, quest'oggi ci occupiamo di un celebre personaggio militante in un'altrettanto celebre formazione che, secondo alcune voci, non sarebbe più tra di noi già da una trentina d'anni. O meglio, secondo questa leggenda metropolitana, la suddetta rockstar sarebbe morta in un incidente stradale alla fine degli anni 70 e colui che vediamo tutt'oggi apparire sui palchi di tutto il mondo sarebbe un sosia che sostituì immediatamente l'originale, ipoteticamente defunto, per proseguire i successi discografici della sua band. Sapete di chi stiamo parlando? Tre ipotesi, tre! Ipotesi A. Elvis Presley. È forse lui? Ipotesi B. Pete Townshend degli Who. O forse è lui? Ipotesi C. Paul McCartney. Su chi è la leggenda che lo vorrebbe morto e sostituito da un sosia? Ditelo subito! La risposta, come al solito, ve la diamo a tra poco. La soluzione, a poco dopo.